And if you wish, you can do this practice standing up. There's no need to suffer anymore. Se volete potete fare questa pratica in piedi, non c'è bisogno di soffrire, inutilmente soffrire ancora. Whatever wisdom we attain in our practice, it has to be translated into an attitude. Qualunque saggezza che riusciamo a sviluppare nella nostra pratica va tradotta in un atteggiamento, in un'attitudine. And when we have the attitude right, it will express itself in the way we speak and what we do in our livelihood. Quando l'atteggiamento è giusto, questo sarà espresso nelle cose che facciamo e in come ci esprimiamo, nella nostra vita di tutti i giorni, nel nostro modo di vivere. The way we develop an attitude is through the act of willing. Quindi com'è che sviluppiamo questo atteggiamento? È attraverso l'atto della volontà. It's important to understand that an attitude is not an emotion. È importante però capire che l'atteggiamento non è un'emozione. So we can practice metta even though we feel depressed or anxious. Quindi possiamo praticare la metta anche se ci sentiamo depressi o ansiosi. If there are these negative states, we just put them to the side. Se ci sono questi stati negativi, semplicemente li mettiamo da parte. We park them like a car. È come se li posteggiassimo come una macchina. This is not the same as suppressing. Ma questo è diverso dal sopprimere o reprimere. When we suppress something, it's always done with aversion or fear. Quando reprimiamo qualcosa, lo facciamo sempre con avversione o paura. But here we just take our attention away into the practice of metta. Qui semplicemente noi togliamo l'attenzione da questi stati e la mettiamo nella pratica di metta. And we are developing our goodwill by making these benedictions, these blessings. E quindi noi sviluppiamo la nostra benevolenza esprimendo queste benedizioni. The traditional blessings, if you want to use them, are as follows. Le benedizioni tradizionali, se volete esprimerle, sono le seguenti. May you be safe, well and happy. Tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. May you live contented and in harmony with the world. Tu possa vivere soddisfatto, in armonia con il mondo. We begin with individuals and we finally end up with all beings. Cominciamo rivolgendo questi auspici agli individui e poi finiamo con l'esprimerli a tutti gli esseri viventi. We begin with our benefactors, people who've helped us in our lives. Cominciamo pensando ai nostri benefattori, le persone che ci hanno aiutato nella nostra vita. When gratitude arises in us, it's very easy for us to offer them goodwill. Quando sorge in noi la gratitudine, è molto facile offrire a queste persone, a questi individui, la nostra benevolenza. Let us bring to mind our benefactors. Quindi portiamo alla nostra mente un benefattore, o dei benefattori. And as we picture them in our mind's eye, may you be safe, well and happy. Quindi ce li immaginiamo con l'occhio della mente, che tu possa essere al sicuro, possa stare bene, essere felice. May you live contented in harmony with the world. Che tu possa vivere appagato, soddisfatto, in armonia con il mondo. we can bring to mind those who are near and dear to us. Adesso portiamo alla mente le persone care, quelle vicino a noi. May you be safe, well and happy. Che tu possa essere al sicuro, stare bene, essere felice. May you live contented in harmony with the world. Possa vivere soddisfatto e in armonia con il mondo. We can bring to mind friends, people at work, whomever we wish. Portiamo alla mente i nostri amici, i colleghi di lavoro, o chiunque vogliamo. May you be safe, well and happy. Possiate essere al sicuro, stare bene, essere felici. May you live contented in harmony with the world. Siate vivere soddisfatti in armonia col mondo. We can bring to mind neutral persons. Possiamo portare alla mente delle persone neutre. People that we see but don't know. Persone che vediamo abitualmente ma che non conosciamo. Neighbors, people at work, and so on. Avere un vicino di casa o le persone che lavorano con noi, e così via. Turning now the stream of goodwill towards ourselves. Adesso rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. May I be safe, well and happy. Che io possa essere al sicuro, possa stare bene, essere felice. May I live contented in harmony with the world. Possa vivere soddisfatta e in armonia col mondo. And into the heart of goodwill, we can bring somebody who is difficult for us. E nel cuore della benevolenza possiamo attirare qualcuno che per noi è difficile, una persona difficile. Not that they are difficult, it's just we find them so. Non che necessariamente siano persone difficili, ma noi le troviamo così. And now we can begin to radiate our goodwill outwardly. Adesso possiamo cominciare a irradiare la nostra benevolenza verso l'esterno. First of all, to each other, our present spiritual companions. Innanzitutto, gli uni agli altri, cioè i nostri compagni spirituali. May we be safe, well and happy. May we live contented in harmony with the world. Che noi possiamo essere al sicuro, stare bene, essere felici, possiamo essere soddisfatti in armonia col mondo. And now we can relocate to where we live and offer our blessings to our neighbors, neighborhood, town, city. Adesso possiamo spostarci al luogo in cui abitiamo offrire benevolenza a vicini, i nostri vicini, a tutte le persone che abitano nei dintorni. And from there, radiating out to all the people in our country. E da lì possiamo irradiare la gentilezza onorevole a tutte le persone che abitano nel nostro paese, nella nostra nazione. And from there to all the peoples of Europe. E da lì ci estendiamo a tutti i popoli dell'Europa. To all people on earth. Poi a tutte le persone sulla terra. And finally, to all beings in all directions. Infine, a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And we draw our practice to an end with a little chant, which means, may all beings be happy. Adesso giungiamo alla fine della nostra pratica con una breve recitazione che significa che tutti gli esseri possano essere felici. Sabbe Satta Sukhita Hontu. And then Sadhu, Sadhu, Sadhu. Ci sono le parole in pali. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Very good. Molto bene. So now we have to make our way to bed. Quindi adesso dobbiamo avvicinarci al letto. And from now on to the moment we fall asleep is also very much part of our practice. Quindi da questo momento in poi, fino a quando non ci addormentiamo, anche questo fa parte della nostra pratica. Every action must be deliberate. E qualsiasi azione deve essere deliberata, deve essere intenzionale. Take your time, the slower you go, the better it is. Quindi prendetevi il vostro tempo, più andate lentamente, meglio è. But don't spend too much time in the bathroom. Ma non passate troppo tempo nel bagno. When you finally get to bed, quando finalmente arrivate poi al letto, establish a mental state you want to sleep with. Stabilite uno stato mentale con cui volete dormire. Observing the breath. Potete osservare il respiro. But only to establish calmness. Quindi questo solo però per stabilire, per raggiungere la calma. As we did at the beginning of the sitting practice. Così come abbiamo fatto all'inizio della seduta. make it very, just rest the attention on the breath and just feel the gentle sensations. Quindi appoggiate l'attenzione sul respiro e sentite queste sensazioni sottili, delicate. And the breath will waft you into sleep. E il respiro in qualche modo vi trasporterà nel sonno. Or you can practice the metta. Oppure potete fare la pratica di metta. Make it very simple. Però fatela molto semplice. Just may you be well and happy. Possiate stare bene, essere felici. To yourself. Se rivolgerla a voi stessi. To somebody whom you have no problems with, if you can find somebody. Qualcuno con cui non avete alcun problema, se riuscite a trovarlo. And to all beings. E poi a tutti gli esseri. And just keep gently repeating it. E continuate a ripeterlo dolcemente, delicatamente. Repeat it in the heart. E ripetetelo ovviamente nel cuore. If you find it difficult to sleep in a strange place for the first night or so. Se trovate difficoltà a dormire in un posto che non vi è familiare per le prime notti. And you feel restless. E quindi siete un po' irrequieti. You can try this. Huh? What the matter? You can try this. Allora potete provare con quest'altra tecnica che adesso vi dirà. Take a comfortable position. Trovate una posizione comoda. Use either the breath or the metta. Metta is better. Potete usare o il respiro o la metta. Metta è la cosa migliore. And refuse to move. E poi rifiutatevi di muovervi. If that doesn't work, you still don't get your money back. E se non funziona neanche così, comunque non avrete un rimborso in ogni caso. So may I wish you a peaceful sleeping. Quindi vi auguro un sonno pacificante. Yeah.